siamo con Valentina, che di professione è una guida turistica e alla quale volevamo chiedere quando ha smesso di lavorare e come ha vissuto in questi 2 mesi in cui il flusso turistico si è azzerato e quindi non hanno avuto più modo di lavorare. Ciao, sì, hai detto bene, il flusso si è decisamente azzerato. Ci siamo trovati da un giorno all'altro, più o meno, insomma, nel giro di una settimana, a vederci annullare piano piano tutti i servizi. Inizialmente tutti quelli, io sono riuscita a lavorare fino al 2 marzo, inizialmente tutto marzo qualcosa rimaneva in piedi e poi progressivamente hanno annullato tutto, insomma adesso non abbiamo chiaramente più prospettive. Pare, perché non si può affermarlo credo ancora, che il 18 riaprano i musei, però non si sono capite bene le condizioni in cui si potrà eventualmente tornare a lavorare. Chiaramente immaginiamo che i gruppi siano off limits, siano aboliti, quindi tutta la parte di guide che lavora sui gruppi si troverà chiaramente in estrema difficoltà. Si dovrà capire le modalità di lavoro col cliente privato, quali sono i musei o comunque i siti archeologici all'aperto che consentiranno l'accesso, seppur contingentato. Insomma, noi non abbiamo chiara la situazione, per il momento sappiamo solo che il 18 potrebbero riaprire i musei, ma non abbiamo assolutamente ad ora, oggi siamo al 10 di marzo, mi pare, una situazione chiara di quello che sarà il nostro futuro. Senti, a proposito dell'appunto della sopravvivenza in questi 2 mesi senza lavoro, tu hai avuto accesso al bonus di 600 euro previsto dal DCPM? Allora sì, io ho fatto richiesta e sono stata una delle fortunate che è riuscita ad ottenerlo, mi hanno pagato, sono stata una delle ultime a essere stata pagata prima che poi questo fondo, come sembra, si esaurisse, e ho preso questi 600 euro dopo aver fatto richiesta all'inizio di aprile il 28. E ad ora, 10 maggio, non abbiamo notizia di quello che sarà un eventuale bonus per aprile e maggio. Quindi la situazione è drammatica chiaramente, perché non abbiamo né un sostegno, cioè io questi 600 euro li ho utilizzati per pagare il mutuo, perché ancora non avevo avuto chiaramente la possibilità di utilizzare questo blocco del mutuo che poi è stato attivato. Di conseguenza ci siamo ritrovati a non lavorare, non avere prospettive di guadagno e non poter contare su un sostegno né ammortizzatori sociali che si possano definire tali, in quanto un bonus di 600 euro è chiaramente un intervento palliativo momentaneo che però non è che prevede le politiche strutturali di sostegno, cioè qui stiamo a gambe all'aria e non si è capito quando, se e come potremmo ricominciare a lavorare. Chi lavora con il turismo estero, che è insomma quasi un 60% in media del nostro lavoro, cioè io personalmente lavoro quasi solo esclusivamente col turismo estero, però parliamo insomma di anche le percentuali dei turisti che visitano la città sono chiaramente per la maggior parte turisti stranieri. A fronte di una situazione di pandemia e frontiere sbarrate, non sappiamo che cosa ne sarà di noi. Senti, insomma, mi sembra di aver capito quindi che anche il bonus dei 600 euro non è andato a tutti quanti nel tuo settore. Volevo sapere, relativamente a questo, vi siete organizzati come categoria? Ci sono state delle mobilitazioni oppure avete programmato delle mobilitazioni, delle rivendicazioni? Allora, non sono arrivati a tutti, non sono della mia categoria, appunto, come si sa, questo non ha raggiunto tutti i richiedenti questo bonus. Noi siamo, devo dire, molto divisi, ci sono varie categorie, anche perché la situazione delle guide turistiche è cambiata negli ultimi anni, da quando è stata recepita una direttiva dell'Unione Europea che ha creato, cerco di essere molto sintetica, la figura della guida, diciamo, europea. Per cui qualsiasi guida abilitata nell'Unione Europea può venire a esercitare a Roma. Questo chiaramente ha completamente capovolto il mercato, in quanto noi facevamo parte di un registro, non era propriamente un albo, un registro che aveva subito liberalizzazioni e sanatorie, non la faccio troppo lunga, ma che si è a un certo punto ritrovato davanti a una competizione che noi definiamo sleale, in quanto per poter esercitare il mestiere di guida turistica su Roma devi poter conoscere la città. Tu così hai abilitato una quantità di guide sproporzionata rispetto a quella che è la richiesta su una singola città a esercitare su Roma senza averne i requisiti. Cioè una guida tedesca, una guida polacca che hanno fatto percorsi e formazioni completamente diverse, una guida del Nord Europa che si trova a dover descrivere e parlare delle stratificazioni del Foro Romano senza aver mai sostenuto un esame di archeologia, perché nel loro percorso di studi non è previsto che lo si possa fare perché non hanno neanche una vera e propria figura di guida turistica. Loro hanno più una figura di tour leader, di accompagnatore turistico, che è un concetto diverso rispetto a quello che viene richiesto per veicolare la storia del patrimonio italiano, che è una storia chiaramente complessa che prevede delle competenze e delle abilità. Quindi si è andato a, già prima chiaramente del problema Covid, si è andata a deregolamentare una situazione che poi insomma era stata, esisteva perché doveva tutelare il turismo, tutelare il consumatore del turismo, chi ingaggia una guida turistica perché vuole effettivamente approfondire, aveva portato in Italia tantissime guide straniere che non avevano sostenuto un'abilitazione, nel senso che di guide straniere ce ne sono sempre state colleghi bravi e preparati che hanno sostenuto l'esame come noi quello chiediamo che possano essere verificati, però non, a quel punto i controlli della polizia provinciale, che era diciamo l'ente preposto a verificare che le guide fossero in possesso del patentino e dell'abilitazione, non erano più in grado di stabilirlo perché arrivavano guide da qualsiasi parte del mondo con patentini che non si potevano effettivamente verificare sul posto, e da quella cosa lì ha preso via anche un abusivismo incontrollato. Quindi, oltre a guide abilitate nei loro paesi dell'Unione Europea, si sono messi a fare la guida chiunque. Quindi, diciamo, noi arriviamo a questa situazione con una dimensione lavorativa già compromessa da una serie di deregolamentazioni, liberalizzazioni che ci sono state imposte dall'Unione Europea, che ha determinato che ha praticamente applicato la Bolkestein alle guide turistiche, che era una direttiva sui servizi e che non poteva essere una guida sulle professioni, perché chiaramente non ci può essere equivalenza. La guida è la persona che conosce e veicola la storia del suo patrimonio. E poi il Covid ha fatto il resto. Senti, ma avete appunto avete fatto delle mobilitazioni, siete organizzati collettivamente in qualche modo? Le rivendicazioni intendevo soprattutto per quel che riguarda, insomma, l'accesso appunto agli ammortizzatori sociali in questo momento di crisi. Sì, ecco, quindi per tornare al discorso di prima, noi siamo già appunto divisi come categorie perché abbiamo delle rappresentanze che sono rappresentanze di guide locali, appunto le vecchie guide abilitate con concorso, e poi ci sono invece nuove rappresentanze di guide nazionali che hanno preso l'abilitazione altrove ed esercitano sul territorio nazionale, rispetto alle quali comunque siamo state divise per i problemi che spiegavo prima. Oggi stiamo cercando inevitabilmente di fare fronte comune, anche se gli orizzonti sono completamente diversi, e io parlo per l'associazione alla quale appartengo, che è un'associazione, diciamo, apolitica, è un'associazione di guide abilitate che si chiama AGTAR, e so che la nostra rappresentante Isabella Ruggero sta partecipando ai tavoli col Ministero, quindi sì, ci sono delle consultazioni, concertazioni in corso, però insomma gli interventi pubblici che ho sentito fare a Franceschini non sembrano esserci per il momento ipotesi concrete di un sostegno. Ammortizzatori sociali per noi che siamo una categoria che comunque ha pagato le tasse con un'imposizione fiscale e con oneri fiscali molto più elevati rispetto a quelli del lavoratore dipendente, eppure non ha diritto allo stesso sostegno. Senti, quindi insomma, non vi siete organizzati, riuniti e magari deciso delle mobilitazioni per far uscire fuori questo problema a livello più pubblico, diciamo? E per il momento no, per il momento no, ci sono state solo iniziative di divulgazione gratuita, di autoformazione, tentativi di fare rete, ma ribadisco su una categoria che va detto era già spaccata prima di questa ennesima batosta che abbiamo ricevuto. Senti, ti volevo chiedere anche un po' che ne pensi di questo Netflix della cultura. La definizione è dello stesso Ministero dei Beni Culturali, questa piattaforma digitale a pagamento che offrirà appunto poi spettacoli, concerti, lavori teatrali a pagamento. E che successivamente vedrà anche la realizzazione di documentari a musei, a collezioni d'arte. Volevo sapere un po' tu che ne pensi. Allora, io chiaramente non credo che questa eventuale piattaforma, di cui non mi sono neanche, non neanche approfondito, ammetto, possa sostituire quello che è la fruibilità diretta di un'opera d'arte. Quindi stiamo parlando di qualcos'altro che si può aggiungere come qualsiasi approfondimento e qualsiasi anche iniziativa di digitalizzazione e divulgazione attraverso nuove tecnologie può risultare, diciamo, come dire, un elemento In più. aggiuntivo, esatto. Però cioè, non vedo come noi potremmo pensare di riconvertirci in una cosa del genere, vorrei però vederla cioè nel merito quando poi verranno pubblicati, se qualora mai, perché mi pare che ancora siamo a livello di una proposta di Sì, Franceschini, è una esatto. proposta, no, mi Quindi di faceva. proposte ne ha fatte tante, pure troppe, perché No, insomma. ma mi faceva ridere già il fatto della definizione, no? Questo Netflix della cultura, insomma. No, io poi in realtà sono una grande fan dei documentari, degli approfondimenti, cioè, però inevitabilmente io so, diciamo, perché la mia professione me l'ha insegnato, che la soglia di attenzione dei clienti innanzitutto non può superare mai un certo numero di ore, diciamo un massimo di 3, dopodiché sono bolliti. Però poi tu devi adattare il registro alle singole persone, perché la soglia di attenzione può essere molto più bassa in tanti altri casi, così come invece può essere più bassa, ma può essere sostenuta e tenuta alta da una brava guida che è in grado di comprendere quelle che sono le esigenze e di fare il suo mestiere di divulgazione, ovvero rendere semplice ciò che è complicato. Noi tutto sommato non siamo degli accademici, dobbiamo cercare di toccare i tasti giusti per, come dire, interagire, riuscire a interagire e a solleticare la curiosità dei nostri clienti. Questo lo fai in maniera diversa, cioè i miei colleghi più anziani mi hanno sempre detto una brava guida è quella che spiega i Musei Vaticani in 5 minuti come in 5 ore, cioè a seconda di chi tu hai davanti. E una piattaforma standard inevitabilmente non potrà sopperire a questa cosa qui, chiaramente una guida è tante cose, cioè sì, un po' un Virgilio, perché noi Cicerone non ci Divulgatore. è mai piaciuto di Virgilio, di più la definizione di Cicerone, però sostanzialmente è una persona che prende in carico anche le esigenze specifiche, cioè a volte abbiamo a che fare con persone disabili, con persone con bambini, cioè il registro deve essere sempre adattato e modificato alla persona che è davanti. A volte chiedono anche semplicemente di essere accompagnati nei percorsi perché non si sanno orientare o perché a volte vogliono approfondire tantissimo e chiedono percorsi di diversa natura, a volte sono famiglie che hanno investito sul futuro e sulla formazione dei loro figli e quindi chiedono un altro tipo di relazione ancora. Quindi quella è la ricchezza del nostro mestiere, che non potrà essere sopperita mai da una piattaforma, per quanto poi la piattaforma in sé si può pure discutere, ma è un qualcosa in più, cioè a noi ci dovrebbero dire ora noi come ci ricollochiamo. Cioè l'approccio qual è? Quello assistenzialista? Va bene, però dateci i soldi, perché noi stiamo alla canna del gas, quindi questo insomma va chiarito, poi si può parlare di tutto, ecco. Quindi le prospettive per i prossimi mesi, cioè quali saranno? Quali prospettive hai? Che pensi che farai nei prossimi mesi? Bella domanda. Che penso che farò? Io mi sono dedicata alla mia formazione personalmente, quindi ho deciso che cercherò di giocarmi qualche carta per riuscire a fare qualcos'altro, perché purtroppo comincio a pensare che questo lavoro sia così precario e sia stato così anche proprio svuotato delle sue peculiarità, dei suoi valori aggiunti, in generale in questa massificazione del turismo che ci ha trasformato piccoli Playmobil che fanno i tour de force in giro per Roma, in queste transumanze turistiche veramente senza senso. Quindi in generale io proprio mi sto dando che cosa è diventato il nostro mestiere, perché, come si sente spesso dire, quello che non vogliamo tornare a quello che c'era prima, insomma, che questa crisi possa essere un elemento invece di rilancio verso un turismo diverso, un turismo che al di là del Covid non, come dire, non rinunci al profitto, alla capitalizzazione a ogni costo e quindi all'aggregazione di massa. Quindi un turismo di qualità, un turismo slow, un turismo molto lento, un turismo a misura del turista e di chi anche lavora nel turismo, perché anche per noi era difficilissimo sostenere quei ritmi massacranti che ci imponevano certi tour operator per massimizzare il profitto, gruppi di 50-60 persone a volte, cioè ci chiedevano cose folli con tariffe sempre più basse e perché appunto l'offerta, come dicevo prima, di guide era diventata tale che c'era gente che per inserirsi aveva accettato condizioni che non erano possibili proprio perché il nostro lavoro è un lavoro stagionale e dobbiamo poter guadagnare abbastanza per poterci assicurare anche diciamo, la vita decorosa nella bassa stagione, quindi poi questo è un altro elemento. E quindi diciamo, ecco, io sono un po' pessimista, un po' negativa, o comunque non riesco a vedere tanto la luce in fondo al tunnel. E quindi che cosa ho fatto? Ho investito sulla mia formazione, sto sostenendo gli esami per poter, quando riapriranno le graduatorie di terza fascia, poter iscrivermi alle supplenze e entrare in un altro mondo che è messo ancora peggio. Che è quella dell'insegnamento. È chiaro che non è un'opzione valida di lavoro, è semplicemente una porta che io mi apro, pensando a un futuro che sarà chiaramente un futuro remoto, in cui comunque cioè vorrei poter percorrere una strada diversa, perché questa è irta di ostacoli e non sembra, diciamo, poter essere un percorso fruttuoso in questo momento, quindi forse. Però chiaramente chi lavora, i lavoratori cognitivi, i lavoratori della cultura, si trovano in una condizione di lavoro, in una condizione appunto inflazionata, di lavoro non garantito, ma soprattutto non tutelato dal punto di vista della qualità. Se penso anche al giornalismo, no? Tutto quello che ha generato l'online. In cui ci sono c'è gente che riempie contenuti, che riempie spazi, ma di fatto non guadagna nulla, ma soprattutto diciamo non è Non ha neanche formata, garanzie, non ha sì, garanzie, non ha. non ha garanzie, ma non è neanche formata e qualificata. Perché cioè, tutto è un mestiere, il giornalismo è un mestiere, la guida turistica è un mestiere, cioè non basta averci una generica laurea in lettere per poter. Cioè, ogni cosa ha bisogno di un percorso di formazione che deve essere garantito, deve essere qualificato e deve essere sostenuto. E invece, diciamo, io credo che i lavoratori della cultura oggi in Italia, oggi da diversi anni, si ritrovino a vivere in un far west nel quale appunto ottenti la carta dell'insegnamento, quella della guida turistica, perché comunque devi cercare di portare a casa lo stipendio, perché poi c'è il problema del contingente. Però questo fa perdere anche la passione, la convinzione, l'aspirazione in quello che fai. Io ho sempre amato il mio lavoro, vorrei poter continuare a farlo, però con queste Condizioni. condizioni è chiaro che sono probabilmente una di quelli che abbandoneranno. Non lo so, spero di no, però ecco, oggi non mi posso immaginare un rilancio positivo. Vorrei poter avere gli elementi per poterlo fare, però insomma tutto andrà bene, chi lo sa, probabilmente no, però perché tutto andrà bene ci dovranno essere le condizioni che oggi non si vedono. Senti, e che previsioni invece ci sono per i tempi, diciamo, della ripresa, cioè quando ricomincerà magari ad arrivare il turismo di nuovo in Italia, non solo quello interno, chiaramente? Allora, io credo che, vabbè, questa stagione è saltata, mi pare chiaro, perché comunque, qualora si possa ricominciare a lavorare, sarà solo turismo interno e su una città come Roma, come dicevamo, le percentuali sono basse, ma soprattutto, cioè, gli italiani non c'hanno una lira. La guida turistica è un surplus, ecco, te lo devi poter anche permettere. E poi c'è il problema dell'aggregazione con i gruppi, quindi lo devi fare solo su base individuale, quindi questa cosa ha i costi diversi e come al solito la crisi non ha la stessa ricaduta su di tutti, c'è chi se la potrà permettere, c'è chi non se la potrà più permettere una guida turistica. E quando ricomincerà? Ricomincerà lentamente, credo. Perché comunque noi, cioè, voglio dire, ne usciamo anche un po' screditati come sistema paese. Cioè, quale sarà il turista che a cuor leggero vorrà venire in Italia e che è stato il paese che, diciamo, forse subito dopo la Spagna ha avuto una percentuale, o come la Spagna, non so, adesso non so bene le percentuali, però ha avuto percentuali altissime di morti. Immagino i miei colleghi del nord Italia, sarà ancora peggio per loro, per le mie colleghe di Milano, per esempio, che era una città che invece si stava rilanciando e stava mostrando insomma, di aver investito un po' sul suo tessuto sociale, no? E quindi si ricomincerà lentamente. Il problema è vedere chi sarà rimasto in piedi. Perché io posso pure pensare di sopravvivere Per un po'. stringendo la corda e non spendendo una lira se non per mangiare. E i costi vivi sono chiaramente le mie utenze e il mio mutuo. Però i nostri tour operator, quelli che ci davano da lavorare, che fine faranno? E questo è un altro grande dilemma, chiaramente è un effetto domino, no? Se crollano le piccole e medie imprese, piano piano crolla quella classe media che era già stata ampiamente falcidiata e che chiaramente mi include. Per cui chi lo sa che sarà? Quando si ricomincerà vedremo i risultati, ad oggi è anche forse difficile fare una previsione. Io mi sono detta che non è neanche il momento di fare scelte determinanti, è il momento di aspettare e di vedere che cosa succede. Però ecco, sicuramente vorremmo vedere anche delle proposte concrete e non tante proclami vuoti che però tecnicamente non vengono applicati perché. Ribadisco, l'unico ammortizzatore sociale di cui ho potuto approfittare è stato un bonus di 600 euro perché ho pagato il mutuo che mi è arrivato il 24 di aprile e faceva riferimento a marzo e oggi 10 maggio e il mutuo di aprile e quello di maggio e le mie spese me le sono dovuta pagare da sola. Senti, dal momento che lei ci hai citato il mutuo, sei riuscita almeno a sospenderlo, a sospendere il mutuo per il pagamento della tua prima casa Nella quale vivo, nella quale vivi? spero di poter continuare a vivere. E allora, in una prima fase non sono riuscita ad accedere a questa misura perché ne ero esclusa, in quanto questa misura prevedeva che si potesse accedere unicamente se si aveva contratto un mutuo da almeno un anno. Io in realtà l'ho stipulato ben 5 anni fa, però avevo fatto una surroga, quindi ero passata da un istituto bancario a un altro per ottenere un tasso più basso. E quindi, avendo appena fatto questa surroga, non rientravo in questo anno minimo di contribuzione del mutuo che era previsto, insomma. E so che sono stati cambiati i parametri, devo verificare con la mia banca se, nonostante l'ho appena stipulato, potrò richiederlo e se loro poi me lo accetteranno, questo è da vedere perché so che molte banche si sono anche rifiutate di prestare i famosi 25.000 euro alle aziende, quindi anche questo sembra essere così qualcosa di fumoso e non determinato, che bisognerà poi verificare con la banca nello specifico, quindi mi farà sapere. Va bene, grazie Valentina e in bocca al lupo, diciamo, a questo punto. Grazie a voi e crepi il lupo, chiaramente. She's over by the corner, got a hand. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, continuiamo con un approfondimento sulla situazione dei lavoratori dello spettacolo. Questa è una categoria molto eterogenea che include artisti, tecnici del suono, tecnici delle luci, soggetti che direttamente o indirettamente contribuiscono alla realizzazione di uno spettacolo. Quindi ci sembra interessante approfondire questo argomento per due aspetti. In primo luogo perché è appunto una delle categorie più colpite, e molti già prima del lockdown non lavoravano e quindi sono da tempo non percepiscono lo stipendio, e inoltre è uno dei comparti che ripartirà con più difficoltà e che di più subirà le conseguenze di questa crisi sanitaria, che inevitabilmente si trasformerà in una crisi, in una pesante crisi economica e sociale. In secondo luogo è interessante parlare di questo argomento perché la categoria dei lavoratori dello spettacolo è estremamente frammentaria, sia dal punto di vista della maestranza sia dal punto di vista contrattuale. Quindi c'è chi è subordinato, chi è un lavoratore autonomo, ci sono tantissimi contratti atipici e ci sono moltissimi lavoratori in nero. Quindi, nonostante però questa è una c'è una condizione, cioè, nonostante questo c'è una considerazione appunto interessante da fare, e che nonostante l'eterogeneità e la frammentarietà, i lavoratori dello spettacolo hanno iniziato in questo periodo di quarantena ad organizzarsi, seppur in modo per lo più telematico, visto le circostanze. E quindi a portare avanti una battaglia. Qui con noi abbiamo un lavoratore che è un tecnico delle luci che fa parte del coordinamento dei lavoratori dello spettacolo. Quindi prima però di parlare di come vi siete auto-organizzati, ti chiedo se ci puoi brevemente raccontare la vostra situazione lavorativa e in questo periodo a quali misure sociali ed economiche avete avuto accesso. Ciao a tutte e tutti. Allora, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali a cui abbiamo avuto accesso, chiaramente io parlo prevalentemente di quella che è la mia situazione. Io appartengo alla categoria, diciamo, dei freelance, e anche se non ho una partita IVA individuale, quindi diciamo svolgo tanti lavori all'interno dell'anno in diversi contesti, quindi festival, teatro e quant'altro. E gli ammortizzatori che hanno riguardato la nostra categoria sono stati, vabbè, a parte la NASPI, quindi l'indennità di disoccupazione che già era esistente e che non tutti hanno potuto percepire a seconda delle situazioni contrattuali nelle quali si trovavano. E dopodiché si è creata, diciamo, una grande confusione intorno agli ammortizzatori che invece venivano predisposti per la nostra categoria. Proprio perché l'accesso a questi ammortizzatori legati all'emergenza sanitaria era stato molto confuso, soprattutto all'inizio, le modalità di accesso e a chi fondamentalmente chi poteva usufruirne oppure no, proprio perché la nostra categoria è una categoria che vive di una miriade di contratti differenti, di forme contrattuali differenti. E quindi diciamo che soprattutto all'inizio, diciamo che si è creata una grande confusione. Io personalmente ho avuto accesso alla NASPI, quindi all'indennità di disoccupazione, che è, come ho detto già prima, una indennità che già esisteva prima e che è l'unica forma di supporto al reddito per una categoria intermittente come la nostra, che per natura vive di contratti intermittenti, a meno che non si è dipendenti di teatri, quindi in forma stabile, o di società di servizi che riguardano il settore. E per quanto riguarda invece l'indennità di Covid, c'è stata appunto questa indennità di 600 euro che riguardava in particolar modo noi lavoratori dello spettacolo, il cui accesso però era vincolato a un numero di giornate previdenziali. E c'è da dire, appunto, come si diceva già prima, che c'è molto nero nel nostro lavoro ancora, e quindi soprattutto per il reparto artistico, devo dire che si è riscontrato questo problema. Molte persone non hanno avuto accesso a questa indennità nonostante appunto ce ne fosse estremo bisogno. Infatti sin da subito è emersa comunque l'esigenza di richiedere un reddito di quarantena, proprio perché non si poteva prescindere da una richiesta di reddito per tutte e tutti in questo momento, al di là di quello che si era versato o non si era versato, proprio perché comunque di fatto siamo completamente bloccati, completamente fermi nel nostro lavoro, quasi tra i primi, diciamo, e tuttora all'oggi, insomma, non si ha una chiara definizione della ripartenza del nostro lavoro, sia in termini di sicurezza sanitaria sia in termini di condizioni lavorative. Lascio la parola. Ok, quindi diciamo, infatti, una cosa che è successa a differenza di altre categorie di lavoratori, no? Come ad esempio quelli del turismo, che pur condividono con voi l'eterogeneità e la frammentarietà delle condizioni, però ad esempio invece voi, nonostante questo, siete riusciti ad auto-organizzarvi. E quindi vi chiedo come è partita questa auto-organizzazione, se siete uniti e coordinati a livello nazionale e oppure di più a livello locale. E cosa rivendicate, come pensate di muovervi anche nel medio termine, quando magari le cose si allenteranno e si potrà riscendere per le strade? Allora, diciamo che subito dopo l'inizio del lockdown c'è stata l'esigenza comunque di sentirsi e di rompere, diciamo, l'isolamento che la quarantena imponeva proprio per creare un mutuo aiuto. Innanzitutto per l'accesso a queste indennità, a questi ammortizzatori sociali, proprio perché non era chiaro chi poteva effettivamente usufruirne oppure no. Quindi diciamo che inizialmente si è creata appunto una catena di chat, WhatsApp in forma locale o comunque regionale in tutta Italia, proprio diciamo con la funzione di creare un mutuo soccorso innanzitutto per le questioni legali che riguardavano il lavoro, quindi per chi aveva bisogno di un consulente del lavoro piuttosto che di qualcuno che si occupasse e aiutasse a comprendere la propria situazione, diciamo, previdenziale. E, successivamente a questo si è andati ovviamente cercando di creare un coordinamento più ampio dal punto di vista nazionale. Per da una parte appunto unificare le richieste riguardanti l'emergenza sanitaria, quindi ripeto il reddito di quarantena, che chiaramente è una richiesta che non riguarda solo il nostro settore, ma riguarda tutti i settori che vivono di lavoro atipico, di lavoro intermittente, che non dà di per sé garanzie sufficienti in una situazione come questa. E anche se chiaramente io personalmente devo dire che ho trovato molto importante il fatto di aver creato tanti gruppi a livello locale, perché comunque questa situazione di quarantena rende molto complicato ovviamente coordinarsi e fare, diciamo, assemblee molto ampie. Sono partite una serie di assemblee telematiche su Zoom piuttosto che su altre piattaforme. Appunto, che da una parte ci hanno molto aiutato a rompere l'isolamento, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista pratico. Questo sia a livello locale che nazionale? Sì, a livello locale che nazionale. Poi sul nazionale, tuttora si fa un po' fatica, diciamo, a creare un fronte unico, proprio perché, diciamo che ciascun gruppo e anche ciascuna situazione locale ha delle sue specificità e quindi diciamo che la creazione di un coordinamento nazionale è qualcosa che di per sé comporta una sintesi nell'approfondimento delle questioni legali piuttosto che appunto delle rivendicazioni e quindi su questo ancora un po' dobbiamo lavorare, diciamo, come categoria. Però gli sforzi sono molteplici. Su tutto il territorio nazionale e c'è un coordinamento che si chiama Professionisti dello Spettacolo, che è, diciamo, prevalentemente dislocato al nord, che per primo ha dato, diciamo, l'impulso di creare un coordinamento su scala nazionale, proprio per fare in modo che emergano con forza delle rivendicazioni di settore, non come tecnici, come attori o come musicisti, ma come intero settore dello spettacolo, in particolare dello spettacolo dal vivo, ovviamente, in quanto ovviamente il cinema vive di altre caratteristiche, insomma, strutturali proprio del lavoro, oltre che di altre forme, altre professionalità, diciamo così. E quindi, ecco, io personalmente su Roma ho avuto la fortuna, insomma, con altri colleghi di trovare comunque subito un coordinamento tramite gli auto-organizzati dello spettacolo, ci siamo denominati così, auto-organizzati Spettacolo Roma. E questo collettivo, quindi, come dicevo prima, ha dato innanzitutto supporto alle persone proprio per tutte le vertenze che ovviamente si stavano creando su tutti gli ambiti, diciamo, del nostro settore. Dopodiché, come tutti gli altri gruppi locali, ha cominciato a lavorare in funzione di una riforma, di una richiesta di riforma strutturale del nostro settore. Che non ci faccia tornare a lavorare come lavoravamo prima. Tant'è vero che una, diciamo, delle frasi che un po' accomunano tutti quanti è che non vogliamo tornare alla normalità che era prima, cioè quella che per noi era la normalità, era una normalità fatta di tante piccole rinunce, tanti piccoli soprusi, tante piccole e non piccole, insomma, difficoltà quotidiane allo stare al mondo proprio, diciamo, facendo questo mestiere, questo lavoro, che vogliamo invece regolamentare, che vogliamo normare, e quindi chiaramente su tutto ciò che riguarda l'aspetto appunto riformatore del futuro, ovviamente si aprono divisioni diverse che comportano un po' una frammentazione ancora allo stato attuale, anche se comunque, come ripeto, da parte di tutti c'è ovviamente l'intenzione di creare un movimento più possibile unito e ampio e largo. Che appunto arrivi anche a dialogare con chi poi di fatto le decisioni le prende, quindi con i sindacati confederati, Voi non siete seguiti da sindacati, siete totalmente auto-organizzati per ora in questa fase? come auto-organizzati dello spettacolo, sì, siamo completamente auto-organizzati, abbiamo iniziato uno studio dei contratti nazionali con l'obiettivo di unificarli, proprio perché noi non abbiamo un unico contratto nazionale che norma la nostra situazione. Ma abbiamo tanti contratti nazionali che si sovrappongono e che danno, diciamo, la possibilità a chi poi ci assume come lavoratori, diciamo così, di trovare tante piccole scappatoie in funzione di anche una scarsa tutela. Uno dei punti di vista che sta emergendo da parte nostra su Roma, ma anche in altri ambiti appunto nazionali, è che sarebbe estremamente importante trovare appunto unificare questi contratti nazionali e dare delle caratteristiche al nostro lavoro che siano per tutte e tutti su tutto il territorio nazionale, proprio perché paradossalmente so che può sembrare strano, però non esistono delle convenzioni che valgono per tutti, quindi se si lavora a Roma o a Milano o a Torino, piuttosto che a teatro o in una sfilata di moda o in un evento televisivo, non esistono dei tabellari che riguardano il nostro lavoro che vengono accettati da tutti, non esistono degli straordinari che vengono considerati per tutti alla stessa maniera, o spesso non esistono proprio gli straordinari. Quindi noi lavoriamo a forfettario, spesso e volentieri, superando le 12 ore di lavoro al giorno. E non esiste una forma di previdenza ad hoc che riguarda la nostra situazione lavorativa, quindi che venga incontro all'intermittenza del nostro lavoro. Quindi spesso siamo costretti a accettare condizioni di lavoro non adeguate proprio perché nel passaggio da un lavoro all'altro non siamo tutelati e non abbiamo niente se non la NASPI, quindi se non la disoccupazione, ma che di per sé servirebbe ad altro. Quindi ci sono tanti tavoli che si stanno formando, tavoli sul FUS, che è il Fondo Unico per lo Spettacolo, quindi perché si occupa di produzione, tavoli che riguardano i contratti nazionali, tavoli che riguardano l'intermittenza, tavoli che fondamentalmente mettono insieme lavoratori, che si stanno appunto auto-organizzando, studiando tutto questo e anche riferendosi a quelle che sono le riforme di altri paesi, come per esempio spesso si fa riferimento alla Francia, che hanno una situazione insomma più normata. Noi non abbiamo un sindacato di riferimento. Come auto-organizzati abbiamo semplicemente messo a disposizione una serie di numeri di telefono di consulenti del lavoro che potevano individualmente aiutare i lavoratori nelle loro singole vertenze. In altri contesti nazionali, invece, altri gruppi si sono appoggiati più ai COBAS piuttosto che ad altri sindacati di base che si sono resi disponibili a dare, diciamo, una sponda alla nostra lotta. Però di fatto, appunto, non abbiamo nessun sindacato che segue complessivamente la nostra situazione, e quindi proprio da questo nasce l'esigenza di auto-organizzarsi. Ok, allora io ti ringrazio per tutto quello che ci hai raccontato e spero insomma che riusciate a essere sempre di più, a creare questo movimento e a vincere sulle vostre battaglie, sulle vostre vertenze, ma soprattutto speriamo che magari si creerà in futuro un grande movimento di tutti i lavoratori uniti, che questo è proprio l'obiettivo che più ci auguriamo. Sì, assolutamente. Le vertenze che riguardano noi riguardano larghi settori del mondo del lavoro e quindi è importante comunque da parte nostra il fatto che dobbiamo comunque cercare di entrare nelle vertenze del mondo del lavoro tutto, intero. E quindi di non sentirci diversi dagli altri comparti del lavoro. In questo momento in particolare in cui si parla di ripartenza del lavoro, in cui le attività produttive stanno ripartendo, in cui siamo in una fase 2, che appunto si vorrebbe, nella quale si vorrebbe velocemente tornare alla cosiddetta normalità di prima, è importante invece non cascare in questo ricatto, diciamo, del lavoro e dotarci, per esempio, di uno strumento di cui noi non abbiamo mai potuto usufruire, ossia lo sciopero. Come settore, come altri settori lavorativi invece fanno. Quindi è importante che non appena sarà possibile ritornare in piazza, che tutte le vertenze di tutti i lavoratori si uniscano in questo momento molto importante e che la tutela della salute di tutte e tutti non sia pregiudicata, non sia in deroga rispetto alla necessità di riaprire i comparti produttivi. E quindi noi su questo in particolare in questo momento ci stiamo domandando e ci stiamo unendo proprio perché si vuole riaprire l'attività produttiva senza le garanzie necessarie e eliminando in fretta e in furia quelle che sono state le poche tutele, le poche, diciamo, tutele, i pochi soldi che ci sono stati dati fondamentalmente per superare questa situazione. Quindi è importante stare uniti tutti insieme. Perché uniti si vince. Dai, dai, grazie. Grazie a voi.